北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可赴。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。 Quale valenti noi quando c'è la gloria non abbastanza da bere non è tardi nessun timor incontri in casera col sole e l'ultima sua notte di libertà domani prende moglie già la principessa Fedora Romazov quella vedova fredda ricca passabilmente 14 milioni salve a tempo il pochi un capo scarico le donnine le carte le bottiglie i cavalli niente si stava freschi si stava freschi che due stanzo Ma lui! Silenzio! Ricapitavo! No! La principessa sospegna di padrone! Rigida è assai la Federico. Quella donna chi è? Fedora Ramazzotti. La principessa. Sì. Dottore, una disgrazia, un assassino, con te, con te, con me, là. Con me, con me, con te. Eccomi. Il signore, Giovanni di Sirie, ha confesso, ha detto alla baciata di Francia, la ringrazio, col fascista e su di con me. Thank you. la suite. Io ti amo, ti amo, era il signore. Dica il verso, io più non posso. Oh, padrone mio. Così adunque, signore, va a chiedermi qui da un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Dove a testarmi impugno? A terra stava. Un solo colpo esplose, apparteneva il conte. Sì, inerme non usciva, poiché era minacciato. Minacciato? Minacciato? Qual figlio al generale vostro capo? È un nichilista. Fate gli appunti. Padiglione fu preso da una vecchia in affitto. Silenzio! Grida! Padiglione fu preso da una vecchia. Una vecchia? Una vecchia oggi recò una lettera al conte. E questa lettera? È in quel casetto. Nonno, l'ha trovato! Chi venne ancor? Perché tanta imprudenza? Thank you. cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, cerca, seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. Lo rivedo. Sento che è qui. Thank you. sia partita a mezzanotte e domani poi vedremo allora troppo addio addio fra un'ora. Un dispaccio ufficiale mi consiglio di